Da questa indagine che emerge il rapporto della Banca Centrale, la richiesta è davvero sempre la stessa. Da un lato minori vincoli all'occupazione, quindi anche a ridurle e farle aumentare a piacimento ovviamente del mercato, dove poi ormai per mercato abbiamo capito, no, che il dizionario si aggiorna e oggi significa soltanto protezione dei profitti, perché poi dall'altro lato chiedono una liberalizzazione ancora dei contratti a termine. Se andiamo a guardare quello che è successo negli ultimi 15 anni, non soltanto in Italia, ma penso anche alla Francia con la somministrazione, la Germania con i lavoretti, della ARS, la Spagna, eccetera, ormai effettivamente, cioè, esiste di tutto, si può fare il tempo determinato in un qualsiasi momento, che duri in qualsiasi, per una durata di poche ore fino a 3 anni, no? Di rinnovi senza causale, quindi senza neanche dire del perché si scelga un tempo determinato che non sia appunto poi quella cosa che invece tanti riescono a dire senza più pudore, con estrema sincerità, che per abbassare un po' il costo del lavoro e di conseguenza anzi i salari. Questa è, diciamo, una richiesta che, tra l'altro, appunto, guardando il rapporto della BCE, si nota che sono appunto aziende, i 35 gruppi sia industriali che dei servizi occupano circa l'1% dell'occupazione, no? Del monte degli occupati europei. Credo sia rappresentativa, o dovrebbe essere. Il problema è che, appunto, nel momento in cui si dice che le riforme ci sono state anche se lente a causa di vincoli politici, io credo che ci sia davvero una grande disonestà, nel senso che tutti i governi, anche quelli, diciamo, che erano un po' più di opposizione rispetto a manovre di riforma sfrenate, se vogliamo, verso la flessibilità, sono stati costretti a farlo. Ora, poiché in Italia siamo arrivati appunto all'obbligo del lavoro gratuito, come ci siamo detti tante volte, non ce l'aveva chiesto nessuno, però davvero sarebbe curioso e anche interessante andare a vedere che cosa hanno risposto gli italiani. Purtroppo questo dettaglio oggi non c'è. Il paradigma comunque che si consolida mi sembra sempre lo stesso. Forse, io voglio essere ottimista, in qualche modo è una presa, no, di forza, una prova muscolare di fronte anche a un disagio sociale e lotte che crescono sia in Italia come in Europa, quindi loro in qualche modo devono un po' fare il pugno di ferro. Beh, insomma, grazie per vedere ogni tanto il bicchiere mezzo pieno. Però, insomma, lo abbiamo detto più volte, ma te lo richiedo lo stesso: evidentemente a queste imprese non interessa una manodopera qualificata, perché se i lavori sono, come dire, appunto a termine, possono durare anche poche ore, pochi giorni, ovviamente una formazione del lavoratore non può essere, per ragioni ovvie, no, una formazione di alto livello, e quindi la manodopera di cui si avvalgono è scarsa, e quindi anche forse il prodotto finale lo sarà. Ma su questo io leggo, anzi, da quello che appunto si riporta nel rapporto, una grande contraddizione, perché da un lato chiedono di investire, chiedono ovviamente al pubblico di investire in istruzione terziaria e secondaria di tipo tecnico professionale, dall'altro però effettivamente loro si sottraggono alla responsabilità della formazione interna, e sanno benissimo che, per quanto qualificata possa essere la manodopera in arrivo, sicuramente la competenza specifica, chiamiamola appunto con il loro gergo, sarà limitata, perché una persona che lavora saltuariamente o pochi giorni la settimana, una volta tanto, non acquisirà mai quella conoscenza, no, dei processi in cui è inserita. Però appunto è rilevante il fatto che loro chiedano maggiore istruzione tecnico-professionale e allo stesso tempo però non hanno mai alzato il ditino contro lo sfacelo, se vogliamo, dell'istruzione, anche quella tecnico-professionale. E su questo però le responsabilità ce l'hanno, perché in Italia, per quanto sia un modello diverso, ma gli istituti tecnico-professionali sono stati all'avanguardia in un momento in cui anche l'industria, quindi il settore produttivo, era all'avanguardia, penso dal punto di vista appunto della tecnologia, dei processi produttivi. Nel momento in cui, quindi, come dire, nei laboratori tecnici c'erano i macchinari all'avanguardia in Italia, che poi erano gli stessi che venivano utilizzati nelle aziende. Quando si comincia ad investire nella scuola, quindi non ci sono più laboratori, i macchinari sono sempre più, come dire, obsoleti, e dall'altro lato abbiamo anche il tessuto produttivo che continua a disinvestire, non si capisce dove si possa fare materialmente questa formazione. Fermo restando, come dicevo all'inizio, che loro chiedono la scuola, ovviamente dal punto di vista della spesa pubblica, no, che sia aumentata, migliorata, poi nessuno alza la mano quando invece appunto i ragazzi proprio degli istituti tecnico-professionali devono fare 400 ore, non si sa dove, non si sa come, in alternanza scuola-lavoro, messi a produzione per le aziende, no? E questo non ce lo diciamo forse troppo poco, ma allo stesso tempo rivendicano anche un altro ruolo dello Stato, quello di avere delle reti infrastrutturali molto forti, cioè a volte viene davvero ironicamente di guardare alla Cina e dire quantomeno il capitalismo di Stato si fa per sé le proprie infrastrutture, perché se poi appunto noi gli stendiamo i tappeti rossi e loro quello che sanno fare è soltanto estrarre i profitti, francamente non so come dire, cioè se il capitalismo ha dei problemi se li risolvessero da soli piuttosto che ovviamente scaricarli sulle nostre spalle. E mi leggo a questo discorso spostando i riflettori sulla politica, perché se la politica ha fatto tanto per le imprese, diciamo, per la classe padronale in questi anni senza averne riconoscenza, appare invece, come dire, forse con le mani legate, impotente, debole di fronte alle stesse imprese che poi si comportano in modo arrogante. Qui ovviamente penso al caso Embraco, alla rabbia dell'altro giorno di Calenda, perché nonostante tutte le offerte del pubblico, tutte le garanzie che offriva il pubblico, questa impresa vuole licenziare 500 lavoratori perché altrimenti, insomma, perde dei punti in borsa sostanzialmente. Questo è una sintesi forse anche che semplifica un po' però di quello che sta accadendo. Quindi insomma la politica si è legata alle mani da sola? No, la politica può continuare ovviamente a scegliere da che parte stare, perché appunto un lato è mandare tutti al diavolo e di fatto poi alla fine lavarsene le mani, perché questo è quello che fa Calenda, piuttosto che dire benissimo, volete delocalizzare, a me non frega niente che il vostro blocco di interesse siano gli shareholder, quindi chi dovrà avere via borsa dei dividendi, per me l'interesse generale sono i lavoratori, che poi significa anche le loro famiglie, il tessuto sociale del territorio e così via. Ci sono gli strumenti legali che possono essere agitati, le sanzioni, le istituzioni degli incentivi. Poi io lo dico sempre, agitare anche l'esproprio in questo caso fa bene, così che comincino anche a capire che insomma non siamo proprio un territorio, un terreno, no? Uno Stato usa e getta. La politica deve scegliere davvero al di fuori della campagna elettorale dove stare e come pensare questa politica industriale, cosa che non mi pare Calenda stia facendo.